Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Thailandia, proteste di piazza, stato di emergenza, la monarchia reagisce, Brexit, oggi il vertice europeo, ma le trattative saranno lunghe. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Political tension in Thailand has been growing after 3 months of demonstrations, and there are now fears there might be a return to the violent street protests of 2014. Boris Johnson's due to speak by phone to the President of the European Commission in the next half hour ahead of his self-imposed deadline for walking away from post-Brexit trade talks. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Con me ci sono come ogni giorno Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666 per sms e whatsapp, domande e commenti. Siamo anche sui social, cercateci. Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Come avete sentito dai titoli, due le pagine che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato il vertice europeo che avrà tra i temi principali la Brexit, quest'oggi, staremo a vedere con quali esiti naturalmente, vi anticipo, le trattative saranno lunghe. Niente di facile per quel scottante dossier che ci ha impegnati nel racconto quantomeno tutta la scorsa stagione. E poi Thailandia, ci spostiamo nel sud-est asiatico per proteste di piazza che hanno raggiunto livelli decisamente preoccupanti, quantomeno la monarchia e il governo sono preoccupati, tanto da introdurre lo stato di emergenza. Questi sono i temi di quest'oggi. 349-238-6666 per voi, noi intanto sfogliamo come d'abitudine i nostri dossier. Il primo ci porta in Libia, con quella che è, diciamo, una notizia, ma forse dovremmo dire una non notizia, perché si sussurrava e si vociferava da tempo che alcuni elementi del guardacoste libico avessero a che fare coi trafficanti. Il potente ministro degli interni di Tripoli, Fatih Bashagha, ha arrestato infatti poche ore fa Abdul Rahman al-Milad, il soprannome Bija, forse questo nome vi dirà qualcosa, è un noto trafficante di esseri umani. Le accuse mosse da Bashagha sono appunto traffico di esseri umani e contrabbando di carburante. Un'emittente libica ha da pochissimo dato la notizia di questo arresto. Si stanno però muovendo alcune delle milizie legate a Bija e questo è un elemento preoccupante. Alcuni media italiani, alcuni giornalisti ne hanno parlato a lungo, Nancy Porsia su tutti, ma anche nello Scavo, su Avvenire, quando nel 2019, perché vi fu un incredibile incontro di esponenti del governo italiano con alcuni esponenti libici, tra cui peraltro c'era anche Bija. La qualcosa aveva, come immaginate, non poco imbarazzato le autorità, sia libiche ma soprattutto italiane. Staremo a vedere quali saranno gli esiti. Sostanzialmente il re è nudo, perché a questo punto anche il governo di unità nazionale di Sarraj ha puntato i riflettori su questo trafficante e per il momento ha deciso che la sua carriera militare e criminale finisce qui. E poi a Cipro, per un altro scoop, un altro lavoro incredibile svolto da colleghi, quelli di Al Jazeera. Demetris Silluris è lo speaker del Parlamento cipriota, ha annunciato le sue dimissioni dopo essere stato coinvolto nello scandalo chiamato The Cyprus Papers Undercover. Il sistema è stato portato a galla, è stato fatto emergere proprio da Al Jazeera, il network internazionale. Sostanzialmente si prevedeva la vendita di passaporti e della cittadinanza cipriota anche a criminali in cambio di investimenti nel paese. Silluris naturalmente ha precisato che si tratta di un malinteso ed è evidente il desiderio da parte di alcuni di sfruttare l'intera questione per fini politici. Io non ho fatto niente di male, così ha detto Silluris. Le sue dimissioni arrivano la mattina dopo che i manifestanti si erano riuniti davanti al Palazzo del Parlamento a Nicosia chiedendo la sua rimozione dall'incarico e un'indagine ufficiale. Ancora una volta un esempio di come molto spesso il buon lavoro giornalistico vada a anticipare, addirittura a sollecitare quella che è la macchina giudiziaria. A proposito di apparato giudiziario, diciamo, sanzionatorio. Parliamo di Unione Europea e il caso Navalny. Come vi anticipavamo ieri, quest'oggi sono usciti maggiori dettagli sulle sanzioni decise dall'Unione Europea. Riguardano stretti collaboratori di Vladimir Putin. I nomi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea perché sono ritenuti coinvolti nel tentativo di avvelenamento di Navalny, noto dissidente oppositore russo. Tra i nomi spiccano Andrei Yarin, capo della Direzione per gli Affari Interni dell'amministrazione presidenziale, il braccio destro Kirienko, il vice ministro della difesa Popov e altri tre funzionari. In più, le sanzioni sono state decise anche contro l'Istituto Scientifico di Stato per la Chimica Organica e la Tecnologia, che sarebbe stato coinvolto proprio nel processo di fabbricazione dell'agente chimico che è stato poi somministrato, ricorderete, in Siberia a Navalny. E poi andiamo in Kashmir, che è un altro fronte molto caldo. In un'ampia intervista con un giornalista indiano, Mohammed Yusuf, consigliere per la sicurezza del primo ministro pakistano, ha dichiarato che il Kashmir deve entrare nell'agenda delle trattative tra i due paesi. Siamo a un anno dalla guerra che è stata sfiorata tra India e Pakistan e Islamabad sembra aprire a Delhi. A concessione però di cosa? E per una volta forse non vi sarà un convitato di pietra. Ebbene che in questo consesso negoziale che deve delineare le linee per la pace ci siano, udite udite, anche i rappresentanti del Kashmir. E poi continua l'onda lunga delle proteste in Kirghizistan. Il presidente Jeenbekov ha rassegnato stamattina le dimissioni sull'ondata di quelle proteste che stanno attraversando il paese, le abbiamo raccontate con dovizia di particolari dal 4 ottobre scorso. Secondo quanto dichiarato alla TASS dalla Commissione Centrale per le Elezioni, vi dovrebbero essere nuove consultazioni elettorali entro 3 mesi. Naturalmente i manifestanti si augurano che questa volta non vi siano quelli che, a detta di tutti, sono stati brogli a tutti gli effetti. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che diventeranno nuove puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però con Valeria Bernardi andiamo in Thailandia. Pia non sa quando questa crisi finirà o quanto durerà. Sa solo che un albero cresce bene se le sue radici sono in salute. Pia è solo un uomo ordinario che si sta chiedendo cosa è importante nella vita. Un po' di domande che avete udito, questa è la traduzione esclusivamente audio di un video di propaganda thailandese che vi abbiamo appena fatto ascoltare. Si intitola in maniera in verità un poco pomposa Il senso della vita. Le domande che vengono fatte ai protagonisti di questo video: cosa ne sai dell'inflazione, cosa ne pensi dell'economia? E quando il protagonista si sente rivolgere queste domande preferisce non rispondere. Sceglie di vivere nel suo villaggio in campagna con pochi averi e una casa piccola, ma, continua la voce fuori campo di questo video dal chiaro sapore propagandistico, lui sa davvero cosa è necessario e cosa non lo è. Questo è un piccolo esempio, perché sono stati anche video come questi lanciati dal governo per invitare alla modestia ad aver alimentato le proteste degli ultimi giorni in Thailandia. Yad, il protagonista del video, si accontenta, ma i manifestanti, anche in queste ore che sono in piazza, non sembrano interessati ad accontentarsi. Decine di migliaia sono le persone in piazza, stato di emergenza dichiarato dal governo, almeno una ventina di leader delle proteste sono stati arrestati grazie all'approvazione di queste nuove misure di sicurezza. Una volta conoscevamo, forse con un'etichetta un po' logora, la Thailandia come paese del sorriso. Adesso al sorriso si sostituisce il muso duro dei manifestanti contro il governo e contro la monarchia. Le proteste però di ieri segnano un momento eccezionale, lo avete sentito anche dal GR, vi sono delle immagini delle grandi network internazionali e dei fotografi delle più grosse agenzie che stanno seguendo le proteste, che rimarranno assolutamente nella storia, come la folla che ha sostanzialmente circondato l'auto della monarchia. Che cosa sta accadendo in Thailandia? Ci aiuta in questo e ci soccorre Massimo Morello, giornalista, collabora con Il Foglio e altre testate, si occupa di sud-est asiatico ma soprattutto da anni vive a Bangkok e conosce molto molto bene quella realtà. Massimo, buongiorno, ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, buongiorno a te. Allora Massimo, le immagini delle proteste di ieri mostrano la limousine reale circondata dai manifestanti, c'è in particolare uno scatto dell'agenzia Reuters che ha fatto il giro del mondo e si vede la regina, il volto è quasi spaventato. che cosa sta accadendo? Per la prima volta in Thailandia si mette in discussione persino l'istituzione della democrazia, che nel paese era considerata sacra, o mi sbaglio? No, per la prima volta si mette in discussione l'istituzione della monarchia. In realtà non è la prima volta, c'è da fare un distinguo. La Thailandia, per quanto si sia detto, si sia fatto credere, non è un paese legato in maniera particolare alla monarchia, era legato in maniera particolare al precedente re, a Rama IX, a Pola Duliadei, il padre dell'attuale re. Ecco, il precedente re era riuscito a dare un'immagine quasi mitica, mistica della monarchia, era considerato veramente il padre della nazione, era adorato da tutti fondamentalmente. Non così è per il figlio, anzi totalmente il contrario. Quindi in realtà questa contestazione, più che antimonarchica, è antimonarchica in quanto è anti questo re. Poi è chiaro che il si è allargato e questo re rappresenta ormai un qualcosa di più ampio, di più grande di lui, cioè i giovani thailandesi vogliono diventare un paese moderno, cioè quella che c'è in Thailandia adesso è una vera e propria rivoluzione culturale, cioè i giovani non vogliono più alzarsi in piedi al cinema quando prima del film viene trasmesso l'inno reale, ecco, non vogliono più farlo, non vogliono più inchinarsi, nessuno può essere più in alto del re, quindi quando ci si inginocchia al passaggio o ci si doveva inginocchiare al passaggio dei reali, non era solo come segno, come dire, come ci si può inchinare in segno di rispetto, era proprio perché nessuno poteva essere più in alto di lui. Quindi i giovani si oppongono a tutto questo che poi è in maniera ancora più ampia la volontà di opporsi a un sistema gerarchico dominato dal concetto del maggiore minore, dell'anziano giovane, del ricco povero, cioè proprio un sistema non di cassa ma di valori. Ecco, sta esplodendo tutto questo e non è la prima volta che questo avviene, solo che le altre volte le proteste erano guidate da una parte popolare, da quelli che le elite thailandesi chiamavano i bufali rossi, quindi i contadini, gli agricoltori. Questa volta sono gli studenti e non escluderei, ma questa è una mia supposizione, attenzione, che siano anche supportati da alcuni militari e da gli stessi membri dell'elite. Perché? Perché questo re sta mettendo in imbarazzo il paese, sta facendo perdere la faccia al paese. Sì, perché Massimo Marelli, adesso stai aprendo un capitolo che è interessante, no? Da un lato mi permetto di riassumere un paio di punti interessantissimi che hai toccato. Dall'altro, da un lato c'è una, come dire, un'attenzione molto personale a questo re Rama X, pilota, playboy scapestrato, pieno di tatuaggi, che vive in Baviera, e regna da lontano. E già questo, come dire, potrebbe suonare come un paradosso. Dall'altro, questo alto basso, questa complessa liturgia viene in qualche modo contestata, ma anche proprio a livello culturale. La presenza degli studenti, evidentemente, lo sottolinea Massimo Morello, è molto importante, lo ricordo, giornalista, firma del Foglio, fra gli altri, conosce molto bene la Thailandia, ci vive da parecchi anni. Proviamo a tornare, prima di aprire il capitolo, Massimo, esercito che hai citato tu, ma anche i monaci. Torniamo su questa strana figura che tanto, come dire, ha imbarazzato anche i thailandesi. Da un lato, cosa sappiamo di lui al di là di queste sue stravaganze particolarmente eccentriche, ma soprattutto cosa potrebbe fare in queste ore dopo la dichiarazione dello stato di emergenza? Cosa ti immagini come mossa reale, ecco? Guarda, ormai, perché conosco e vivo in Thailandia da tanti anni, nello specifico adesso in questo momento, ahimè sono in Italia, ma proprio perché li conosco devo dire che qualsiasi previsione viene regolarmente contraddetta, non solo la previsione ma anche il contrario della previsione, quindi cosa possa accadere ai limiti. Quindi ti ho fatto la domanda sbagliata, Massimo Morello, mi sembra evidente. No, mi hai fatto la domanda giusta, nel senso che Cosa potrebbe accadere e chi è questo re? Allora, diciamolo in maniera molto semplice, fin tanto che non è salito al trono, si credeva che questo re fosse, come posso dire, uno screzzacollo, ma è un termine, è un eufemismo grande quanto una montagna, che però non era particolarmente abile politicamente né umanamente. Sì. Salito al trono è rimasta la sua immagine di uomo quantomeno discutibile e discusso, si è cominciato a pensare che fosse meno, che fosse più intelligente, mettiamola così, di quanto non si pensasse, con alcune operazioni che ne denotano il carattere. Innanzitutto ha preso il diretto controllo del patrimonio della corona, che prima era gestito da un fondo esterno, cioè dicendo no, questi sono soldi miei fondamentalmente, quindi ci faccio quello che mi pare, mentre prima erano destinati ad attività, diciamo, filantropiche, ad attività sociali. In questo il padre era stato, anche per questo il padre era molto amato, perché in effetti questo faceva, magari sbagliando, però lo faceva. Altra operazione che ha condotto questo nuovo re è riservarsi il diritto di nominare il supremo patriarca della comunità monastica, quindi assumendo un potere anche religioso. D'altra parte questo re sembra voglia porsi come un devaraja, e qui è una distinzione sottile. Nella cultura buddista ci sono due forme di monarca. Uno è il Dhammaraja, cioè colui che governa in nome della divinità seguendo la legge buddista, e questo in fondo era il precedente re. E poi c'è il Devaraja, il dio re, cioè quello che governa in quanto quasi divinità o semidivinità, ed è quello che sta cercando di fare consciamente o inconsciamente questo nuovo re. Dopodiché ha fatto un'altra manovra molto importante, ha messo sotto il suo controllo tutte le forze militari che controllano Bangkok. Quindi fondamentalmente una rivoluzione in questo momento rischierebbe di diventare qualcosa di mostruoso, perché Bangkok è controllata da milizie o dai pretoriani del re, mettiamola così. C'è il fatto che in questo caso le contestazioni sono in gran parte operate dagli studenti, e gli studenti in molti casi non sono più figli del popolino, chiamiamolo così, sono figli dell'elite. Quindi diventa anche difficile andare contro questi giovani, perché questi giovani hanno dei genitori che possono essere in molti casi anche molto, molto importanti. A fronte di questi giovani saranno in grado o saranno disponibili a restare in piazza per giorni come hanno fatto le camicie rosse anni fa? Non credo, però a fronte di questo bisogna anche dire che i rossi, cioè i bufali rossi, i contadini, gli agricoltori, eccetera, stanno avvicinandosi a queste manifestazioni. Quindi difficile capire cosa possa nascere da questa unione tra studenti e proletari, mettiamola così, per usare delle terminologie che ci sono più vicine. Certo, e state ascoltando la voce di Massimo Morello, firma dal Foglio, profondo conoscitore della Thailandia, di Bangkok. Le dinamiche sono tutte in divenire, quindi anche future inusitate alleanze potrebbero scaturire da questa piazza. Massimo, però vorrei tra poco chiudere questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano dedicata alle proteste in Thailandia. Hai nominato due elementi: da un lato l'anima religiosa fortissima di questo paese e dall'altro l'anima militare. Ecco, esercito e monaci, cosa stanno facendo? Sono due componenti della società thailandese che sono molto molto importanti. Forse il loro schieramento potrebbe, come dire, far muovere l'ago della bilancia e quelle dinamiche di cui parlavamo prima. Guarda, l'esercito in questo momento non appare moltissimo, devo dire. Il nuovo capo di Stato Maggiore appena eletto è chiaramente un ultra realista che non, probabilmente non vede l'ora di schiacciare la rivolta nella maniera più brutale possibile. A fronte di questo però probabilmente all'interno stesso dell'esercito, delle forze armate, ci sono moltissimi, come dire, giovani turchi che non accettano quello che sta facendo anche questo nuovo re. Cioè, mettiti nei panni di un colonnello, di un generale di una certa età, relativamente giovane, che magari hanno fatto dei corsi di specializzazione negli Stati Uniti, eccetera, che vedono nominare generale la concubina del re. Certo. Diciamo che si irritano. Sì, stai usando chiaramente un eufemismo, però stai mostrando come in una società sempre più globalizzata e in cui gli addestramenti anche militari internazionali sono oramai una costante, anche gli eserciti più, scusate il termine, sgarrupati di questo mondo fanno training presso forze militari molto molto più costruite. Ma tanto più quello thailandese, teniamo conto che ogni anno in Thailandia si svolge Cobra Gold, che forse una delle esercitazioni più grandi congiunte tra thailandesi, paesi asiatici e soprattutto Stati Uniti. Quindi molti di questi alti ranghi. E non dimentichiamo che la prima rivoluzione, che la monarchia costituzionale in Thailandia nel 1932, fu stabilita in seguito a una rivoluzione di militari. Cioè c'è un Ataturk tra le forze militari di oggi in Thailandia, non lo so, ma non mi sentirei di escluderlo categoricamente. Però, come ti dicevo prima, il grosso problema è che le truppe che controllano Bangkok, e controllare Bangkok vuol dire controllare la Thailandia, rispondono oggi, direttamente al re di cui sopra. E questo naturalmente è un elemento di cui tener conto. Naturalmente cercheremo di aggiornarvi nei prossimi giorni se e come vi saranno evoluzioni in questa complessissima situazione, un luogo apparentemente lontano, la Thailandia. Massimo Morello ci vive e la racconta da tempo, non soltanto per Il Foglio. Io lo ringrazio tantissimo. Massimo Morello, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Tratto Valeria Bernardi ci suggerisce con questo baffo musicale che esiste anche una scena rap thailandese. Sapete che noi normalmente siamo a caccia del metallo, ma questa volta era rap contro la tirannia. Questo è il gruppo che cerca di sdoganare questi messaggi. Un po' di ascoltatori al 349-238-6666. Su tutti, una nostra affezionata ascoltatrice: i militari thailandesi sembrano preferire una monarchia per la Thailandia. Lo abbiamo visto in passato, proprio per questo con Massimo Morello sottolineavamo il ruolo e la posizione che potranno prendere i militari, pur tenendo distinti quelli che sono i militari, la guarnigione di Bangkok, la capitale, e poi il resto dei militari. Tra pochissimo, dopo l'informazione finanziaria, apriremo la lunga pagina dedicata all'Europa, ma anche alla questione Brexit, e così colgo l'occasione per rispondere a un ascoltatore che, dal tono direi un po' stizzito, che dice che non ci occupiamo di Turchia, perché non diciamo qualche cosa anche relativamente al vertice europeo che si occuperà finalmente dei misfatti turchi, drilling, invasione della zona economica di appartenenza greca cipriota con le navi di prospezione geologica. Insomma, un messaggio molto lungo: tutti tacciono, perché non vedete, non vi formate per questi misfatti che si alternano da una vita. Gentile ascoltatore, abbiamo dedicato più di una puntata proprio a questo tema, sottolineando l'arroganza, per usare un eufemismo, della politica estera di Ankara e per il momento l'inazione da parte europea. Di questo si parlerà nel vertice di Bruxelles, ma anche di Brexit. Ancora una volta buona giornata, ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, andiamo a Bruxelles per capire quali esiti scaturiranno dal vertice dei leader dell'Unione Europea. Intanto c'è una breaking che è battuta dalle agenzie e che ha a che fare proprio con Ursula von der Leyen. La notizia arriva da Twitter: sono appena stata informata che stamattina un membro del mio ufficio è risultato positivo al Covid-19, io sono risultata negativa, tuttavia come precauzione lascio immediatamente Palazzo Europa per andare in autoisolamento. Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, su Twitter, lasciando il vertice dell'Unione Europea. Vertice che ha tanti temi sul tappeto. Noi quest'oggi ci concentriamo non tanto sulle relazioni greco-turche, di cui, come ricordavo all'ascoltatore, ci siamo occupati tante volte in passato. In proposito, vi ricordo che se volete approfondimenti in merito, dal sito di Radio 24 trovate i podcast delle vecchie puntate di Nessun Luogo Lontano. Diciamo che sul caso delle relazioni greco-turche tanto vecchie non sono, perché è una storia che dura da parecchio e che per il momento vede sostanzialmente la stessa litania e narrativa. La Turchia, che mostra i muscoli, compie provocazioni, non da ultimo quelle delle esplorazioni di gas nel Mediterraneo orientale, e in Europa una Grecia che batte i pugni sul tavolo, e in Europa per il momento che non dà risposte consistenti. Staremo a vedere a proposito di questo vertice. 349-238-6666, ma anche i social, Twitter, Nessun Luogo 24. Allora, adesso nella nostra copertina curata da Valentina Ternulla e Varela Bernardi andiamo a parlare di Brexit. So when will Boris be making his deal or no deal decision? Stanotte we are leaving the European Union. Lasceremo l'Unione Europea. For many people this is an astonishing moment of hope. Per molti questo rappresenta un momento di grande speranza. I do think that this deal, penso che questo accordo a very good deal sia buono sia per l'Europa, for the UK, sia per il Regno Unito. But of course Michael is absolutely right that certamente sarebbe responsabile per i governi coinvolti prepare for a no deal, prepararsi a un'uscita senza accordo. Let's get Brexit done. Realizziamo la Brexit because we need to build our positive, perché è importante per noi costruire un nuovo rapporto con l'Europa. Come può il governo assicurare ai futuri partner internazionali che il Regno Unito rispetterà gli obblighi legali degli accordi che stipula? Noi speriamo che il Regno Unito, diciamo, esca un po' dalla confusione. Decisamente irriverente la copertina di quest'oggi. Valeria Bernardi e Valentina Ternullo hanno un po' giocato, materiale ce n'era, e diciamoci la verità, la scorsa stagione di Nessun Luogo Lontano ha raccontato questa lunga odissea che quest'oggi, attenzione, non è che va a segnare una pietra miliare, perché Boris Johnson è in attesa da ciò che verrà deciso dal vertice di Bruxelles. Intanto buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano anche a Giorgia Scaturro, giornalista, producer, sta a Londra e sta seguendo con grande attenzione, immagino, tutto ciò che sta avvenendo anche a Bruxelles. Giorgia, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Allora Giorgia, ti leggo un'agenzia di ieri che è notevole perché c'è una dichiarazione del primo ministro britannico Boris Johnson che ha detto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen della sua delusione per il fatto che non siano stati compiuti ulteriori progressi nelle ultime due settimane nei colloqui sulla Brexit. Ci aiuti a decriptare questo strano messaggio di Johnson, perché sembra quasi, questo sì sembra irriverente, altro che la copertina che abbiamo confezionato. In realtà non è un messaggio molto strano, perché è completamente in linea con la tendenza e l'approccio che Boris Johnson sta avendo con le ultime fasi delle negoziazioni sulla Brexit, ovvero mostrare i muscoli. Ricordiamo che la Brexit è quella che ha rivelato la sua personalità politica con la vittoria del referendum e che poi gli ha fatto vincere la campagna elettorale e coronare il suo sogno di diventare primo ministro con il motto che ricordavate prima nella copertina, Get Brexit Done. Quindi a questo punto Boris Johnson deve necessariamente continuare a mostrare i muscoli per ottenere la Brexit che vuole, una Brexit a tutti i costi, anzi proprio oggi scade l'ultimato che ha dato l'Unione Europea, il 15 ottobre, se non ci saranno passi avanti sulle negoziazioni abbandoneremo addirittura il tavolo. Ora, non sembra che questo sarà il caso, ricordiamo di promesse ne ha fatte tante, non ultima il meglio morto in un posto che estendere la data della Brexit, che poi inevitabilmente è stata estesa. Quindi c'è da credergli, sarà davvero un ultimatum E molti qui pensano di no, ci sono rivelazioni del Times che dicono addirittura che in questo momento che stiamo parlando e che sono in corso il vertice, il negoziatore britannico David Frost stia cercando di convincere i partner europei a intensificare un po' le negoziazioni, ma che comunque qualora non il vertice che si vede domani non porti a un nulla di fatto, ci saranno comunque delle mini negoziazioni insieme a Michel Barnier su alcuni settori chiave, l'aviazione, il trasporto, e questo in vista anche del prossimo vertice europeo il 15 novembre. Quindi ci potrebbero ancora essere dei ribaltoni. Boris Johnson si è riservato la decisione finale se abbandonare il tavolo delle trattative o andare avanti alla fine del vertice, quindi capire un po' quali saranno gli esiti e questo si saprà domani. La voce che state ascoltando è quella di Giorgia Scaturro, giornalista, producer anche, ci parla da Londra, ci sta raccontando quello che è ormai una strategia consolidata, quella di Boris Johnson, cioè alzare i toni, alzare sempre l'asticella, e vedremo se nel vertice europeo che è in corso in queste ore, ricordo c'è una breaking, la Ursula von der Leyen si è allontanata perché un membro del suo staff è positivo, ancora una volta la pandemia irrompe anche nei luoghi della politica europea. A proposito però, Giorgia, dello stato di salute, questa volta politico, di Boris Johnson e del suo partito, le nuove restrizioni Covid in Gran Bretagna stanno sconfessando sostanzialmente il suo operato nei mesi della cosiddetta prima ondata. Ecco, se dovessimo misurare la febbre al partito di Johnson e allo stesso premier, che temperatura ne uscirebbe? Direi alta, soprattutto in queste ultime ore dove appunto il caos si sta rivelando in tutta la sua potenza, con la frammentazione del regno unito in varie zone dove un livello 1, livello 2, livello 3 di restrizioni, nessuno ci capisce più niente, sta di fatto è che è campo libero per l'opposizione dire come siamo potuti ridurci così, e quindi attacchi ai suoi continui retromarcia, le mascherine sì, mascherine no, il famigerato sistema di track and tracing, 12 miliardi spesi per un sistema, abbiamo già la seconda app di tracciamento del virus che non funziona, gravissimi ritardi nell'ottenere gli esiti e quindi nell'isolarci, ancora uno su quattro dei contattati non si isola, quindi la difficoltà di far rispettare le regole ai britannici che poi vengono da un'altra parte difesi come libertà inviolabili, e quindi in questo momento l'opposizione di Keir Starmer ha mano libera, lo stesso leader dell'opposizione è in rimonta su Boris Johnson, 36% di vantaggio contro il 32% di Johnson. Anche all'interno del suo stesso partito, i conservatori, ci sono ribellioni, ovviamente in ballo c'è la salute dell'economia e il danno che le chiusure di settori commerciali potrebbero continuare a infliggere sull'economia del regno, già certo, molto toccata, e dall'altra parte con l'aumentare vertiginoso dei casi la necessità di dover fare qualcosa di più per salvaguardare il popolo, cosa che in questo momento con tutti di volta faccia e con tutte le dichiarazioni contraddittorie sentiamo non poterci fidare del primo. Assolutamente, sembra che la politica britannica sia davvero molto molto ombelicale in questi mesi, ma gioco forza, forse però c'è un'apertura, se riesci a rispondermi veramente in un minutino, Giorgia Scaturro, con che attitudine si guarda alle elezioni statunitensi, perché sappiamo che, come dire, forse non palesemente dichiarato, però c'è sempre stato un endorsement da parte del presidente statunitense Donald Trump a Johnson, alla Brexit, alla possibile costruzione di un nuovo ponte transatlantico, benché forse un po' fragilino. Ecco, i britannici, la politica britannica, così incentrati sulla propria situazione, guardano anche oltreoceano? Ma diciamo che queste elezioni americane sono state dominate massicciamente dalla salute, dallo stato di salute e la positività di Donald Trump. Detto questo, e soprattutto in questi giorni con i discorsi degli accordi sulla Brexit, dobbiamo riflettere sul fatto che se davvero Biden vincerà le elezioni, bene, ci troveremo a che fare con un europeista che oltretutto ha una madre irlandese e ha minacciato che non continuerà un accordo commerciale con il Regno Unito se la Brexit in qualche modo minaccerà gli accordi di pace del Venerdì Santo. Quindi le carte potrebbero un po' ribaltarsi e il schiacciatamente anti-europeista e brexitiere Donald Trump potrebbe lasciare il posto a un avversario ancora più duro da battere, Biden, per Boris Johnson. La voce che avete ascoltato è quella di Giorgia Scaturro, giornalista, producer, ma non solo, giorgiascaturro.com se volete saperne di più. Grazie mille Giorgia per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. A questo punto lasciamo le strade, io oserei dire, da quello che leggo, deserte di, per scegliere una città e non sbagliare, Liverpool, che è una di quelle che sta più subendo la stretta anti-Covid. Andiamo su quelle italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, proveremo a analizzare questo ponte, questo nuovo ponte transatlantico, quanto è, quello tra Washington e Londra evidentemente, quanto è solido o seppure la Brexit rischia di minarlo definitivamente. Ancora una volta ben ritrovati, ancora una volta una buona giornata, gentili ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano ci fa viaggiare. Siamo partiti da Bruxelles, passando per Londra, adesso andremo a Washington, naturalmente virtualmente, perché innanzitutto c'è un'altra breaking news che mi segnala Anto Natalia. È stato sospeso l'account Twitter della campagna di Trump, l'account è chiocciola Team Trump, bloccato, e Mike Hahn dello staff di Trump spiega che è stato sospeso l'account per aver chiamato Joe Biden un bugiardo. Questo evidentemente insieme a tutta un'altra serie di mosse, l'avete sentito anche dal GR, che Trump promette di dare battaglia ai team dei social network, stanno irrompendo in maniera molto molto violenta anche nella campagna statunitense. Più in generale è evidente che occorre una riflessione sui social network, che sempre di più si trasformano in organi di informazione e a volte di disinformazione. Detto ciò, quello che vi propongo in quest'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano è provare a analizzare quelle che sono le strane relazioni, forse l'aggettivo non è quello più acconcio, in questo momento tra Washington e Londra. Per farlo naturalmente partiremo da quella che è l'incredibile caso Brexit e lo facciamo con una gradita ospite, Lucia Taioli, docente di politiche economiche, Dipartimento di Management Engineering, Politecnico di Milano, ricercatrice associata di ISPI. Professoressa Taioli, buongiorno, benvenuta Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, grazie. Allora, grazie a lei per essere qua. Io ho definito le relazioni tra Gran Bretagna e Stati Uniti in questo momento strane. Per, come dire, dar corpo a questo mio aggettivo, forse un pochino troppo logoro e banale, stavo leggendo un lungo articolo sul The Atlantic, risale a luglio, riportava l'analisi di Thomas Wright, che è un ricercatore al Brookings Institute. Sostanzialmente dice, per gli Stati Uniti, una Gran Bretagna che si aliena dall'Unione Europea e globalmente andrà a indebolire le alleanze, le relazioni transatlantiche e renderà le democrazie meno competitive, soprattutto con la Cina. Io partirei da questo, perché questo multipolarismo che si sta affacciando nel mondo in realtà forse richiede maggiori alleanze e la Brexit decisamente va a indebolire un continente. Torniamo però, professoressa, alle relazioni tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Lei come le definirebbe? Concordo con l'aggettivo che ha utilizzato, possiamo dire che sono poco decifrabili in questo momento. È molto vero che il Regno Unito ha svolto in diverse occasioni un ruolo di ponte sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, e quindi l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea potrebbe indebolire questo ruolo di ponte che ha svolto. Ovviamente il Regno Unito si è sempre sentito legato per molte ragioni ovvie con gli Stati Uniti, ma in questo momento l'opinione pubblica inglese e di tutto il Regno Unito credo che sia effettivamente molto molto incerta. Anche sulla relazione da tenere con gli Stati Uniti, l'ipotesi di accordi commerciali è molto incerta, per cui lasciare il certo dell'Unione Europea per un incerto possibile, ma tutto ancora da definire, accordo o relazione, apre a ulteriori incertezze che dopo quest'anno credo il Regno Unito non veda con favore. Decisamente è stato un anno, è tuttora un anno particolarmente importante e ovviamente oneroso per tutte le grandi economie mondiali e non solo. Professoressa, ricordo, state ascoltando la voce di Lucia Taioli, docente di politiche economiche, Dipartimento Management Engineering, Politecnico di Milano, ha scritto peraltro un interessantissimo rapporto sul sito di ISPI che andava un po' a analizzare nel dettaglio quelle che sono le relazioni economiche possibili tra la nuova Europa, quella senza Regno Unito e il Regno Unito. C'è un rischio però oggettivamente, professoressa, di un isolamento che, attenzione, non è solo economico, ma a quel punto diventa geopolitico, perché quando tu ti isoli, sto pensando a tutto il settore marittimo della pesca, quello dell'automotive, in generale l'economia funge da molla geopolitica, avvicina paesi, allontana paesi. Ecco, un Regno Unito forse un po' più isolato potrebbe diventare isolato anche dal punto di vista geopolitico, poi con quali conseguenze? Non so se lei concorda e vede questo rischio. Oh sì, concordo assolutamente, cioè l'isolamento economico può portare anche a una minore rilevanza politica del Regno Unito, non c'è nessun dubbio. Stiamo andando sempre più verso una polarizzazione delle relazioni sia economiche che politiche intorno a un polo asiatico chiaramente dominato dalla Cina e un polo più tradizionalmente, diciamo, occidentale dominato dagli Stati Uniti. Parliamo di player di grandi dimensioni, un singolo paese, per quanto si tratti di un'economia rilevante e politicamente rilevante come il Regno Unito, in questo contesto veramente non ha molte carte da giocare, quindi parliamo appunto di player di grandissime dimensioni, sia economiche che rilevanti. Il Regno Unito rischia davvero una certa irrilevanza e un certo isolamento, con delle conseguenze appunto non piacevoli neanche per l'Europa, perché come dicevo il ruolo di ponte che il Regno Unito ha avuto in passato dovrà essere creato da qualcun altro verso gli Stati Uniti e al momento non è chiaro chi potrebbe svolgerlo. E questa è la domanda forse chiave. Io, come dire, dal mio modestissimo osservatorio, andando a raccontare ormai da un anno e mezzo quella che è la grandissima attività di Emmanuel Macron, potrei scommettere un mezzo penny sul fatto che il presidente francese possa ingranare la quarta e assumersi questa responsabilità, così come evidentemente la Germania. Non vedo altri paesi in Europa che potrebbero con loro traino provare a ricostruire quel ponte. Dicevamo, sono due ponti sostanzialmente, quello tra Washington e l'Unione Europea e quello tra Washington e Londra, entrambi, tutti in ridefinizione, e tutti noi si sta guardando al 3 novembre evidentemente come una data fatidica dopo la quale il mondo non sarà più lo stesso, sia nel caso della rielezione di Donald Trump che nel caso dell'avvicendamento per Joe Biden. 349-238-6666, fra i tanti messaggi, quello di un ascoltatore: parliamoci chiaro, non è che Biden sia più morbido per buon cuore, questo faceva riferimento all'intervento di Giorgia Scaturro, e anche interesse elettorale, visti tanti irlandesi nella East Coast, e così fa riferimento anche alla componente migratoria fortissima e storica negli Stati Uniti. Professoressa, siamo quasi in chiusura, se in 30 secondi riesce a rispondermi, poi ci sarà quasi un premio per lei, sembra una facezia ma non lo è. Come si sta guardando al 3 novembre? Faccio anche lei questa domanda, perché Londra evidentemente sta guardando con grande attenzione alla possibile rielezione di Donald Trump. È verissimo, ma indipendentemente dall'esito elettorale, le relazioni tra Stati Uniti ed Europa e tra Stati Uniti e Regno Unito dovranno essere riviste. È vero che Biden è meno diciamo antagonista nei confronti del resto del mondo rispetto a Trump, ma non c'è dubbio che gli Stati Uniti sono in una fase in cui il ruolo di traino all'economia mondiale, alle relazioni politiche mondiali, non vogliono più ricoprirlo nello stesso modo. Quindi anche con Biden gli Stati Uniti cambieranno rispetto a quelli che conoscevamo fino a alcuni anni fa, e quindi sicuramente l'esito elettorale sarà importante, ma l'Europa deve comunque pensare a riguardare a questa relazione in modo nuovo. Avete ascoltato la voce di Lucia Taioli. Il premio irriverente e irrituale è, professoressa, a farci cacciare da una voce che lei conosce molto bene. Ma come, Valeria Bernardi, hai mi hai tolto Donald Trump proprio in chiusura? Va bene, saluti. Un ringraziamento a tutta la squadra, a voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.